domini iladembe, ciò che gli ci cude de prezembe, mi chisce nam ver ti compocio, ovam si ver moid me cocio, mi chisce nam ver ti compocio, ovam si ver moid me cocio, lupto mi ci cude lupon lupon, mi chisce ver ti gran obocio, mos me glupto me cioc somoron, Mingyadram verti obosod, most meglopom egy csok szomorod, mindjárt rám verti obosod.